amici del Move to Groove. 11 novembre 88 è Golden State Warriors Portland Trail Blazers, la Sputnik Warriors 108-100 con un Clyde Drexler sottotono 8 su 22 per 20 punti. L'uomo della serata è Chris Mullin, 42 punti con 14 su 25 dal campo e 14 su 14 liberi, con un incredibile aiuto Manute Ball, 10 punti, 10 rimbalzi e 10 stoppate, seconda tripla doppia della carriera per lui. Buongiorno a tutti. E buongiorno nuovamente a tutte e a tutti voi, amici sportivi e non sportivi, per il Move to Groove imprevedibile di oggi, 14 novembre. Abbiamo anche anticipato i contenuti della prossima settimana grazie a un lungo, il compianto Manute Ball in una tripla doppia, un importante contributo che viene dato dal gigante sudanese. Per questi super lunghi avremo modo di parlarne il prossimo martedì insieme a Paolo Zanardi, che innanzitutto saluto. Ringrazio Paolo Onofri, do il buongiorno a Pietro che è qui in diretta con noi. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti. Apparentemente così un po' strano l'argomento di apertura di un ricco e imprevedibile Move to Groove per quest'oggi, l'organo Hammond. Innanzitutto vi voglio anticipare che sarà motivo di incontro, ma avremo modo di approfondire tutto ciò con il Bologna Jazz Festival per la giornata di domani con Jazz Insight, curato da Emiliano Pintori al Museo della Musica, thanks Mr. Hammond, dedicato ai protagonisti dell'organo Hammond. Ma che c'entra l'organo Hammond con l'NBA, con questi parquet e non solo, con lo sport professionistico americano? L'organo Hammond è, per appunto gli appassionati di NBA, quel jingle su cui poi solitamente gli americani fanno l'unico coro che conoscono, sia defense. Uno dei pochi che conoscono, esattamente. Viene incitata la difesa e quando nelle prime visioni, negli anni 80, delle dirette, oppure delle sintesi, per meglio dire, altro che dirette magari, delle sintesi di alcune partite NBA, durante il gioco io sentivo gli stacchi e la conduzione di un organo Hammond e dicevo, ma che è questa roba? È impossibile, è impensabile che durante il gioco ci siano questi jingle che vanno a esaltare il contropiede oppure un'azione molto importante difensiva. Eppure è così. Uno dei protagonisti è stato Ray Castoldi, un paesà che ha avuto modo di conduzione musicale per gli incontri sportivi, non solo all'interno della NBA, è molto presente anche nelle partite di baseball, dove le pause sono infinite. Quindi le partite, gli incontri di sport professionistico nel baseball, nel football americano e nel basket sono anche motivo di spettacolarizzazione, come ben sapete, e chiaramente oltretutto la musica ne dà un accompagnamento e una colonna sonora importante. Tutto ciò con l'organo Hammond nella maggior parte dei casi. Tra l'altro, pensate quanti motivi di conversazione. Paolo Onofri, e qui chiamo in causa la nostra co-conduzione da remoto, mi ha detto: guarda che un film dove Billy Crystal interpretava il ruolo di un arbitro, Forget Paris, è in una partita tra Phoenix e San Antonio, in questo derby tra Arizona e Texas, che inizia esattamente con uno stacco di organo Hammond. Beh, ce lo ascoltiamo. It has come down to this. 8 seconds to go, one possession. Marv Albert with Bill Walton from the America West Arena. Allora, il adesso abbasso perché non posso lasciare ovviamente tutto il film, ma è quanto mai attinente a un aspetto sportivo, una telecronaca, e l'ospite in questa telecronaca è Bill Walton, ed è veramente Bill Walton, e i protagonisti in campo, ne ricordo alcuni, Dan Meyerly, Charles Barkley, al quale viene annullato, avete sentito, 8 seconds to go, secondi mancano alla fine, Phoenix è sotto, Charles Barkley metterà questo canestro decisivo, l'arbitro Billy Crystal lo annulla in maniera assolutamente così inattesa. Barkley inizierà con delle proteste, interpretando se stesso, però le vengono molto bene, e chiedo appunto a Paolo anche di raccontarci di più. Ma l'inizio, come avete sentito, è stato portato dalla forza dell'organo Hammond, che ha una tradizione, pensate, ma probabilmente avete modo di aver già conosciuto non solo le sonorità ma anche una storia, che nasce in maniera sacra. Perché? Perché nelle parrocchie nel sud degli Stati Uniti, e non solo, la possibilità di avere un organo a canne, insomma, è quanto mai costosa. Allora si rifanno all'invenzione di Lawrence Hammond nel 1934 e avranno modo di portare in maniera più economica ma allo stesso tempo impegnativa queste sonorità calde, queste sonorità avvolgenti, queste sonorità che danno motivo di spiritualità e nello stesso tempo di aggregazione. Ben presto diventerà anche legato alla musica profana, nel jazz, nel soul, e questo come protagonista è stato nella maggior parte delle composizioni il grandissimo Jimmy Smith, che ci ascoltiamo e poi torniamo in diretta con il Mood Groove. Casa era sotto e stava rimontando da un parziale anche bello stosso, tipo anche una ventina di punti, richiamava all'attenzione il pubblico dell'arena a incitarli soprattutto nella fase difensiva e provare così a completare l'intera rimonta e magari anche andare avanti e portare a casa la vittoria. Era nato così il mitico organetto delle arene sportive. Thank you. Io capisco, in effetti noi lo chiamiamo l'organino. Hai sentito l'organino della NBA? Hai sentito quando una squadra va in contropiede che c'è un tema che incita alla riscossa, oppure all'aggregazione quando c'è una difficoltà e dobbiamo assolutamente rimontare? Ecco, quindi non ha avuto solo importanza nella spiritualità e poi in seguito, come parleremo nella colonna sonora odierna, alla musica jazz, al blues e, per quanto riguarda il sacro, l'attenzione per il gospel. Nelle parrocchie il costo di un organo a canne è assolutamente molto molto importante, quindi si è trovata questa soluzione e, come ho detto, avrà modo di uscire, di essere diffuso in altri aspetti musicali. A calore, nello stesso tempo a coinvolgimento, a motivo di aggregazione, anche gusto, e quello che è legato all'organo Hammond è all'invenzione tra il 1934 e il 1935 da Lawrence Hammond. Hammond B3, ce ne sono diversi modelli. Quello che sarà presente nella serata di domani dalle ore 18 per la rassegna Jazz Insight 2023 con la curatela di Emiliano Pintori, appunto, sarà presente proprio in luogo dove al Museo della Musica alle ore 18, ribadisco, Museo della Musica in Strada Maggiore 34 alle ore 18, Emiliano avrà modo di essere coach e dimostratore, tanto per usare dei termini legati al multigroove, di solito ospiti per dare lo spazio di dimostrazione in musica e ascolto. In questo caso sarà lui stesso all'organo Hammond B3 a dare colonna sonora all'incontro di Jazz Insight. E oltretutto ho avuto modo così di sentirlo per quanto riguarda la presentazione della rassegna di per sé, che concluderà nelle serate di martedì 21 novembre e mercoledì 29 novembre, ma avremo modo di avere in studio Emiliano per il Jazz Live. Lui stesso ha detto: ma io smonterò anche l'organo per far vedere a chi sarà presente al Museo della Musica qual è il funzionamento, perché in effetti c'è un amplificatore, le ventole di raffreddamento, non è che sia una cosa così immediata, anzi tutt'altro. Stiamo ascoltando l'incredibile The Incredible Jimmy Smith, il protagonista principale per questa uscita da un aspetto sacro dell'organo Hammond fino a una diffusione in diversi generi musicali, con il disco The Cat in orchestra. La conduzione dell'orchestra è curata da Lalo Schifrin. Con l'andare degli anni poi le varie arene, le varie squadre NBA personalizzarono questa musicalità. Mi ricordo Indiana Pacers, è stato dei motori quando i Pacers andavano in contropiede, mettevano in sottofondo il rombo di un motore di una Formula 1 per richiamare le mitiche 500 miglia di Indianapolis. O a Detroit, quando si portava a casa la partita o si veniva da una rimonta, suonava il mitico fischio. Sì, delle, quando delle ci aziende. Stava il lavoro giornaliero nelle fabbriche, Detroit, anche quella città dei motori, piene di fabbriche, c'è la Motor City, e per rimanere in tema lavorativo aveva portato questo a tonalità anche sul campo da basket. Send you back to Arkansas. Oh. yes, well, you don't do right. Don't do right. Oh, playboy. Grazie Lino che hai anticipato il mio motivo di conversazione. Ecco, questa è co-conduzione al 333-180-9494. Intanto che ascoltiamo What I'd Say, beh, non poteva mancare Ray Charles. In effetti, appunto, come dicevo, in Italia l'avvocato Porelli lo introdusse a metà anni 70 sulla falsa riga della NBA e faceva suonare la marcia da Il Ponte sul Fiume Kwai. Ricordo benissimo, però non lo suonavano durante i momenti di gioco, all'entrata della formazione oppure qualche stacco durante i time out, ma durante il gioco chiaramente era impensabile tutto ciò. Ovviamente abbiamo parlato dell'avvocato Porelli all'ingresso della Virtus. Poi mi sembrava che la musica all'intervallo si fosse nuovamente presente, ma non si vedevano stacchi durante la partita. Sì, infatti, come ho appena detto, grazie Lino. Tanti virtussini oggi all'ascolto, salutiamo. Beh, noi abbiamo una nostra simpatia, ma non siamo certamente un format, se non che qualche lontana goliardia ci può essere, ma veramente molto soft. Non è un format sul tifo, assolutamente, anzi, tutt'altro. Buongiorno, anche la mitica Virtus aveva l'organista con la musica del Ponte sul Fiume Kwai. Grazie Luigi, sì. E invece con la presenza dello strumento che sarà anche sezionato per conoscere tutti gli aspetti di una sonorità molto strutturata, sarà questa sera alle ore 18 in Strada Maggiore 34 al Museo della Musica con Thanks Mr. Hammond, dedicato ai protagonisti dell'organo Hammond a cura di Emiliano Pintori, Jazz Inside 2023. Il mitico Madison di Piazza Zarita, quando giocava la Virtus, anche loro avevano una sorta di pianola che poi anni fa fu misteriosamente rubata da qualcuno che ancora tutt'oggi non si sa chi, ma fu letteralmente rubata la pianola del Madison di Piazza Zarita. Come puoi ricordarti tutto ciò, Pietro? Per quanto riguarda le visioni delle partite NBA, ne hai ben lucidità, a quanto pare, nonostante la giovane età. Ed è anche un dettaglio molto specifico questo, eh? Allora, il ricordo dell'organo Hammond è perché nel 2009-2010, mi ricordo, guardai una partita di regular season NBA, quindi no. Certo. Che non richiede il massimo della concentrazione, no. Se così. Soprattutto nel 2009. Esatto. Ecco. E mi ricordo, notavo questo defense. Io ai tempi frequentavo lo stadio di calcio per amicizie, quindi no, certo. Ambiente di cori, di tifo e quant'altro. E una volta ti scappo, ho detto defense. Esatto. E il contrasto appunto con quello che era con quella che era l'atmosfera dell'organo e che creava l'organo, carina ma appunto diversa, molto diversa. Everybody rock, rock, rock, everybody jump, jump, jump, everybody wail, wail, wail, everybody jump. Avremo modo di ascoltare altri protagonisti. Intanto cito anche Larry Young, grande musicista all'organo Hammond B3, e anche questo sottovalutato Ronnie Foster. Già ho proposto l'interpretazione sua, ma è sempre bello riascoltarla prima della pubblicità di Let's Stay Together di Al Green, dove fate attenzione all'assolo di organo che lui porta quando esce dal tema di Let's Stay Together e parte con un'improvvisazione legata al soul assolutamente di grande gusto. A dopo con la pubblicità, seconda parte di Mood Groove. aiuto quando scappa l'uomo in difesa, si cerca l'aiuto dei lunghi e la risposta è hold on, I'm coming, aspetta, sto arrivando. A volte l'aiuto riesce, a volte l'aiuto è un po' in ritardo, capita. In questo caso è presentissimo, hold on, I'm coming, Ruben Wilson, sempre per dare continuità alla colonna sonora con organo Hammond B3. E poi ricordiamo anche come è nato il Mood Groove, con uno Starting Five dedicato ai grandi campioni alla musica. Siamo partiti con Jimmy the Incredible Smith, che è il nostro Buck Williams, in quanto ha cambiato e ha portato a una visione completamente integra, concreta il ruolo di power forward, di ala forte, rendendola moderna, non più un portatore d'acqua ma un protagonista assoluto, secondo me nel ruolo di ala forte pura l'atleta più importante di tutti i tempi, un esempio. Charles, beh, Ray Charles, sarei d'accordo con me, Pietro e Julius Irving, la spettacolarità, la capacità di dare concretezza, non spettacolarizzazione, ma una spettacolarità, quindi per ottenere il risultato lo si può fare anche in maniera spettacolare, e questo era il grande Dr. J, che direi proprio Ray Charles in questa selezione musicale sul parquet dei 103.1. Vuole una guardia imprevedibile, anche un po' indisciplinata, e Ruben Wilson, l'ho detto un po' troppo bolognese, ma del resto a Bologna siamo in parte perché stiamo parlando di Sugar Ray Richardson, che ha calcato anche i parquet Felsinei nella Virtus Bologna, che oggi è molto presente del resto in musica, con l'organo Hammond ha avuto una parte così per quanto riguarda l'aggregazione in note all'entrata degli atleti in casacca bianco-nera. Intanto purtroppo continua la nostra Spoon River, abbiamo appena fatto in tempo a salutare, grazie anche al contributo di Marco Santucci, ex compagno di squadra per il Latte Sole Bologna, sponda Fortitudo, a un grande campione di cui abbiamo portato attenzione e abbiamo anche intuito la grave difficoltà in salute. Purtroppo le condizioni si sono aggravate fino alla sua dipartita e quindi oggi salutiamo Charles Jordan. Esatto, un saluto a Charles Jordan. Io sono certo che tu hai fatto anche un po' di ricerca sui coach per quanto riguarda invece la nostra perché Spoon River con Bobby Knight. Novembre è lungo, io ho studiato di recente, diciamo. Ok, certo. E quali sono i protagonisti che vorresti sottolineare? Per trovare appunto un gancio con il passato, che poi è sempre presente, che quindi no, possiamo trattare qui a Move to Groove, Pat Riley, grande prima allenatore, poi ora manager plenipotenziario di franchigia NBA, in questo caso dei Miami Heat. Il suo erede, il suo figlioccio, ossia Eric Spoelstra, che è questo allenatore classe 1970, quindi relativamente giovane per l'età di molti allenatori NBA, che è appunto la prosecuzione di Pat Riley e con una buona continuità ha raggiunto 6 finali NBA dal 2008 oggi. Il 2008 è quando appunto è entrato in carica come allenatore, capo allenatore dei Miami Heat, secondo allenatore più vincente, esatto, della storia di Miami Heat, o meglio, primo allenatore, però seconda figura, diciamo, più certo, vincente, perché rimane sempre l'ombra di Pat Riley. È il secondo allenatore con la carica intenuta più lunga dopo Greg Popovich di San Antonio, che però appunto ha 20 anni di più, quindi all'età che gioca dalla sua. E appunto Eric Spoelstra, personaggio particolare, perché a questa storia lui nasce un po' come ragazzo di bottega, quindi no, io mi ci rivedo anche un minimo. Lui è un coordinatore, un mero coordinatore video, e fa questo ruolo. Ah, lui faceva il coordinatore video. Lui faceva il coordinatore video dal 95 al 2001, quindi dai suoi 24 ai suoi 30 anni tipo. Poi inizia a lavorare nello scouting, sempre continuando parallelamente. Certo, il percorso è quello. Esatto, di coordinatore video, e durante un, come le chiamano gli americani, no? Le film session, le sessioni, certo, video. Di tape, cui guarda, una volta era, esatto, e Pat Riley, che aveva, mi si perdoni il francese, il culo girato. Sì, era un po' storto. Esatto, era un po' storto. Dopo una partita giocata male da parte degli Heat, dice a Eric Spoelstra: questa sessione la gestisci te. Non bene, solo metti la cassetta, ma gestisci te la sessione. E lì dirà poi Pat Riley, anni dopo, ho capito che aveva la stoffa per fare il capo allenatore NBA. Addirittura, quindi a sua volta scout di coach anche Pat Riley. Esatto, vabbè. Non solamente uomo di grande gusto estetico, ricordiamo che Pat Riley portava in panchina un completo con una firma importante a ogni incontro dei Los Angeles Lakers. Quindi grande attenzione per le signore sedute nel parterre del forum, perché insomma quest'uomo, seppur non più giovanissimo, si presentava ai tante sempre elegantissimo, eh? Dan Peterson lo sottolineava: oh, vediamo un po' com'è vestito oggi Pat Riley. Tutti i tempi, per me il più grande che sia mai esistito, ha guidato anche i Phoenix a una finale NBA, maestro della difesa, un vero sergente. E Pietro, ti do una notizia, è risposta sì, bravino, ma è lo stesso un fantoccio. I Miami ti allena ancora a Pat Riley, anche se è diventato general manager. Venne a Milano a un camp, fece un viaggio in piazza Monte Napoleone, via Monte Napoleone, sempre a Milano nel centro, e in tipo in 10 minuti spese un tipo un 5-6 mila dollari di abbigliamento nei vari negozi. Era veramente un dandy ai tempi Pat Riley, un artista, un esteta, veramente un grande amerino. E ho messo Norm Nixon, oddio scusate, no, ho messo Jimmy McGriff, però l'ho abbinato a Norm Nixon, mancava un playmaker e l'abbiamo portato con questo musicista di groove all'organo Hammond B3, per ricordare il primo Showtime dei Lakers, che io preferisco sinceramente, sarò il solito che guarda al passato, ma per me Nixon, Jamal Wilkes erano da preferire ai grandissimi Byron Scott e James Worthy. Ma qui ammetto, è unicamente gusto personale, per carità, non voglio assolutamente fare delle classifiche, mai guai. Anche perché hanno avuto ragione loro a scegliere, non è stato certamente motivo di rimpianto quando presero la scelta di Byron Scott al posto di Nixon, anzi una grande continuità. E poi non stiamo a parlare di James Worthy, che è un atleta da North Carolina, un fenomeno. Confermi che è ancora un po' in secondo piano, giustamente tra l'altro, nei Miami Heat. Eric Spoelstra? Ma sì, il punto secondo me è che quando hai una figura così grande dietro è, cioè, difficile. Parti dal presupposto che un minimo nell'ombra rimarrai sempre. Poi Spoelstra, alcuni dicono, io non me ne intendo abbastanza, il miglior coach attualmente nell'NBA. I risultati sono dalla sua, perché fa finali con squadre abbastanza, non ovviamente scarse, però neanche dei dream team. Esatto. Ecco. Io vorrei saperne di più, ma abbiamo poco tempo, perché io, sai, dall'86 sono andato a calare fino a inizio anni 90, dove proprio non riuscivo più a guardare. Però c'era questo nome che continuava a girare, ce ne sono diversi. Magari una volta mi darai una mano e parleremo di questi nomi che ho smarrito completamente, ma che ho sempre sentito e mi hanno lasciato una grande curiosità, come ad esempio Duncan, per dire. Non ho mai visto giocare Tim Duncan, mi dicono fortissimo. Ma Popovic come allenatore, anche per Popovic hanno detto una figura fondamentale. Che dire, certamente in due minuti non se ne può parlare. Ma ne avremo modo. Allora, in chiusura, diamo anticipazione di quella che sarà la prossima puntata con Paolo Zanardi in redazione, che ritroviamo e porteremo il team al gran completo per uno speciale sui super lunghi. E arriva la mia polemica: ho visto giocare in qualche spot, non in tutta la partita, in qualche spot, questo lungo sempre di San Antonio, Wambaye, questo 2,20 metri. Oh, io l'ho visto tirare con la catapulta da tre punti e fare poco altro e non metterla sempre. Comunque, oh, adesso funziona così, avremo modo di approfondire anche questa specificità. È un bel lungagnone, ecco. Sì, si farà, secondo me il talento, cioè, è grezzo, cioè, è molto molto grezzo. Non togliamo nulla a Sposta, grandissimo allenatore, anche se però finché c'è quel santone di Greg Popovic, penso sia ancora lui il numero uno su una panchina NBA. Addirittura, Greg sì, Popovic. Sì, io concordo con Paolo, Popovic rimane personalmente anche con distacco il miglior allenatore NBA. E avremo modo di parlarne. Siamo giunti al termine con questa puntata, come ho detto, imprevedibile e legata per lungo spazio all'organo Hammond, con la serata Jazz Insight per domani sera, mercoledì 15 novembre, Thanks Mr. Hammond, dedicata ai protagonisti all'organo Hammond B3, a cura di Emiliano Pintori, al Museo della Musica in Strada Maggiore 34 a Bologna. Grazie per l'attenzione, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo che a breve ci sarà l'IDP enciclopedico a seguire, Liberi Dentro, quindi il vinile della settimana, non il vinile quotidiano, anzi il doppio vinile quotidiano, mi raccomando, da non perdere, con Andrea Gozza dalle 10.30 alle 12.30. Domani voltiamo pagina con Silvia Albertazzi in diretta per presentare le due pubblicazioni della settimana. Ribadisco il 333-180-9494 per arricchire la vostra biblioteca e non mi resta che congedarmi a voi, ascoltatrici e ascoltatori, con un caloroso abbraccio. Augurarvi un buon martedì, un buon ascolto sui 103.1. Grazie Pietro! Grazie Willy! Ciao!